ed abbiamo in collegamento ora una compagna che ci racconterà un po' cosa è successo a Milano domenica scorsa. Ciao, ci senti? Pronto? Ci senti? Ciao, ci senti? Sì, io vi sento, vi okay. Sentite? Ok, sì, scusa, un po' di problemi tecnici, è il bello della diretta. Ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ciao, benvenuta a Radio Tagadà. Allora, niente, volevamo un po' farci raccontare da te cosa è successo domenica scorsa tra Piazza Fontana e Largo Cairoli ed il perché, insomma, di questa iniziativa organizzata appunto domenica 4 dicembre. Sì, domenica 4 dicembre abbiamo organizzato, dico abbiamo perché eravamo diversi collettivi uniti per una marcia antifascista proprio in virtù dell'organizzazione di una fiaccolata fascista in Cadorna. Ha visto la partecipazione, appunto, come vi dicevo, di più gruppi, tra cui c'eravamo noi di Together for Iran per la comunità iraniana, c'era anche la comunità curda, con noi c'erano le ragazze di Non Una di Meno, c'era l'AMPI, c'era il circolo, il FAI, il circolo degli anarchici, ma anche il PCL e tantissimi altri. La partecipazione è stata davvero alta e questo ci ha fatto un sacco piacere. Il corteo è stato bellissimo perché abbiamo attraversato la città, il centro città, abbiamo avuto diversi interventi durante tutto il corteo e al termine del corteo però purtroppo abbiamo avuto degli scontri perché appunto dall'altra parte, non molto distante, c'era questa fiaccolata dei fascisti che tra l'altro, cosa che non è stata messa alla luce, che purtroppo abbiamo scoperto soltanto successivamente, insieme al gruppo fascista hanno partecipato anche dei sostenitori del regime islamico. Soltanto successivamente abbiamo trovato la loro locandina, abbiamo visto che stranamente e casualmente il luogo e la data erano le stesse di quelle della fiaccolata fascista. Però okay, felicissimi di aver visto una grandissima partecipazione da parte di tutti. Ok, tu quindi intendi i sostenitori del regime islamico in Iran? Sì, esatto. Ok, va bene, noi ci eravamo anche già sentiti un po' di tempo fa per un'altra iniziativa. Ricordiamo che con il percorso Together for Iran più o meno ogni settimana si scende in piazza e quindi volevamo chiederti due aggiornamenti appunto su questo percorso che sta attraversando Milano oramai da settembre ogni fine settimana e se vuoi dirci anche due cose riguardo all'avanzare delle proteste in Iran, se ci sono ancora situazioni di tensione eccetera, anche perché diciamo che l'attenzione dei mass media di regime è abbastanza calata a riguardo, ma noi proviamo sempre a fare un po' di controinformazione, quindi se hai voglia di darci due notizie a riguardo. Sì, certo, assolutamente. Allora, intanto con il gruppo stiamo andando avanti, come dicevi, con le iniziative e il prossimo sabato 17 saremo di nuovo in piazza al mattino alle 10:30 in Piazza della Scala insieme alla banda degli Ottoni a Scoppio. E durante questa manifestazione avremo anche l'inaugurazione di un'opera d'arte di dimensioni 10 metri per 10. Oltre alle piazze, comunque, stiamo andando avanti con le iniziative, stiamo partecipando a un po' di progetti a cui ci stanno invitando. E in Iran, sì, ovviamente le manifestazioni di protesta continuano, anche se devo essere onesta, un po' la gente in piazza è calata. C'è meno gente in piazza, ma soprattutto in virtù del fatto che il regime islamico ha reso praticamente ha legalizzato l'impiccagione, quindi i manifestanti una volta arrestati hanno diritto ad un processo che non è un reale processo, è un processo che non vede un avvocato difensore, un processo lampo di 10 minuti e la condanna è praticamente la stessa per tutti e quindi appunto l'impiccagione. Proprio l'altro ieri è stato condannato e poi impiccato un ragazzo di 23 anni. Una cosa molto importante che sta accadendo in Iran già da diverso tempo, ma che continua ad aumentare riguardo alla partecipazione, sono gli scioperi. È partito tutto con gli scioperi dei camionisti. I camionisti hanno fermato la circolazione delle merci, motivo per il quale anche i bazar e i negozi, i piccoli centri sono costretti a chiudere le saracinesche. Questa è una una cosa molto importante, perché bloccare l'economia all'interno del paese può essere una mossa astuta per riuscire a mettere in ginocchio appunto il regime islamico. Ok, va bene, perfetto. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E niente, ci sentiremo prossimamente, magari anno nuovo, così magari ci continui a dare un po' di aggiornamenti riguardo questo interessante percorso che insomma c'è da settembre a Milano e continua ad esserci. Grazie e a presto. Assolutamente, grazie, grazie a voi, a presto. Allora, ringraziamo la compagna e ora ci ascoltiamo Gall of Dance dei Lebanon Hanover, duo new wave synth pop britannico-tedesco formatosi nel 2010 grazie a Larissa Eisglass e William Maybellin. La musica dei Lebanon Hanover è stata paragonata al rock gotico post-punk degli anni 80, per intenderci stile Siouxsie and the Banshees, The Cure e Bauhaus. Questa è Gall of Dance, tratta dal disco Tom for Chew del 2013. Vai Dina! Schöner